visto le suole, l'opposizione è buona, solo a parole. Mengistu fa la bella vita in Zimbabwe, gli etiopi muoiono di fame, tanto sono le banche ad ingrassare, mentre il telegiornale c'è le mani minù e siamo messi male. Sono mass media da cartone animale. C'era una bomba alla stazione di Bologna, un'altra Brescia in piazza della Loggia. Ci sono vasi USA in Sardegna e l'uranio impoverito, chissà Bush dove lo butta. E Berlusca rimane più italiano, medio di Axe. E non è più solo questione di rap, la lotta nocciola è tra verità e falsità, tra chi ci sta e non ci sta, tra poesia e pubblicità, tra visa e post. Aspettiamo la strada spianata da un boss, una VN Rose. Hold me close and hold me fast, the magic spell you cast, this is generazione che è solo da perdere. Restiamo vuoti a rendere, riempiti delle cazzate della tele e del grande fratello che ci vuol fottere. Compra, compra, la sostanza non cambia, grilla in gabbia, fede ci dà la sveglia. È la tristezza che avanza insieme all'ignoranza da bestia. Mi parli di fede sincera, che è una passione vera, che ci credi ancora, ma in quanti non si son fatti la tessera. Non abbiamo progetti né sogni, ce li ha sfasciati i padri, ci hanno lasciato senza nessuno. Acquistare gli artigli se non bersagli virtuali, in continuo movimento come l'AI. Cittadini agricoltori, di signori facoltosi, siamo disoccupati, lavoratori, saremo anziani senza pensioni, attivisti da saloni. Credo più a Harry Potter che a Berlusconi.